Giovanna, buonasera. 451, giuro che non ho fatto niente, io sono Max Macchia, la sigla è partita e c'è stata una sorta di evento fantasma che non ho controllato. Un omaggio chiaramente a Freak Anthony, a Schiantos, ma probabilmente a un'attitudine, a un pezzo di storia, un urlo incredibile che si alzò alla fine degli anni 70 con un eco incredibilmente mondiale, quello insomma dei giovani arrabbiati che si organizzavano, facevano musiche diverse, facevano politica in maniera diversa e cercavano appunto di creare un mondo diverso. Per tanti aspetti magari ci sono anche riusciti, per altri no. Poi appunto la faccenda è legata alle opere aperte, quindi quantomeno insomma l'omaggio a Fate l'Algo, all'Avanguardia, siete un pubblico di merda, lo ribadiamo qua da 451 Frammenti Sonori in compagnia di Max Macchia. Ma d'altronde insomma, sperando di essere, oppure provandoci, anche forse la parola migliore, ancora con quell'urlo primordiale che riecheggia in maniera sempre più forte e probabilmente oggi anche a livello emotivo, visto insomma che ci ha lasciato il nostro Freak Anthony. Ma lasciando, come dire, appunto questi echi di incredibile forza, come succede per il sassolino lanciato nel lago, diventa sempre più grande, poi d'onda che crea. In realtà quello che faremo stasera qua a 451 non è lontano, come d'altronde tante volte abbiamo fatto insomma come 451 Frammenti Sonori, ovvero lanciare un sassolino perché insomma si allarghi in termini anche così insospettabili, insospettati soprattutto da noi che proviamo a lanciare questo sassolino, magari con, ecco, a questo punto ci vuole la speranza che si allarghi sempre di più questa onda e questa probabilmente diffusione di un suono, o forse ancora meglio di una attitudine esistenziale nonché politica. E se sottoscriviamo e, come dire, riecheggiamo, tentiamo di farlo sia il testo che le musicalità di Fate l'Algo all'Avanguardia, lo facciamo questa sera con un codice nero, 451 in codice nero, ovvero dentro possibilità date dal noir, dalla visione sonora del cinema noir, chiaramente un rimando che ha questa immagine, questo immaginario tanto forte tuttora, non soltanto tra l'altro a livello strettamente visivo e cinematografico, ma anche letterario, se pensiamo a questi anni, come è successo di un certo noir, anche piuttosto sfruttato, anche forse in maniera impropria rispetto anche all'immagine dell'outsider, forse romanzata in alcune situazioni, in altre invece è assolutamente portata a un realismo anche piuttosto crudo. Pensiamo a un film come Legacy City, ad esempio, dove c'è quasi un'impronta impressionista della New York degli anni 40, molto forte, molto crudo, anche quasi documentaristico in alcuni punti. Oppure pensiamo a certo noir dove invece c'è una sorta di romanticismo, anche se vogliamo, dell'outsider, colui che cade in una sorta di incomprensibilità, di marginalità tra il voluto e il non voluto, quasi come se a livello sociale avvenisse questa cosa, una sorta di automatismo, oppure che sia proprio una scelta, quindi in questo senso veramente strettamente romantica. Lì potremmo citare il Bogart noir. Questa sera prenderemo in questo 451 codice nero quelle che sono le non ci riesco, perdonatemi, stasera veramente sono quasi a metà, non sono interamente io, poi dopo magari correggiamo anche la pelle figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo, riuscirò a dire anche la parolina magica che non oso di dire ovviamente in questo momento, comunque delle traslazioni, ecco, usando un altro termine che magari mi esce più semplice, che ci portano direttamente a certe riprese del noir di qualche anno fa, sia in chiave fantascientifica, sia in una chiave così punk, potremmo dire, quindi sempre riprendendo insomma l'apertura in sigla di Fate Largo l'Avanguardia, oppure degli atteggiamenti weird che hanno legato i due immaginari, se uno parte in maniera quasi laterale a una certa Hollywood, oppure considerando il polar francese, la Nouvelle Vague, addirittura precedente a quella, e comunque cinema di genere che comunque poi porta inevitabilmente per tematiche ma anche per sperimentazioni dentro lo stesso genere al degenere, a una degenerazione voluta e sperimentale dell'intero cinema, e del cinema forse che nasce come poliziesco e poi si sviluppa appunto come noir, appunto avendo questa connotazione nera. Nella traslazione che tratteremo questa sera si avventura appunto anche su territori weird, quindi strane fantasie, reinvenzioni legate a questo immaginario, queste immagini anche sonore, perché tante volte vengono anche riprese proprio i vecchi temi di Max Steiner, ad esempio di Bernard Herrmann, grandi insomma che hanno fatto grande non solo le musiche del cinema noir, ma hanno fatto anche grandi le musiche del Novecento, soprattutto ricordando il grande maestro Bernard Herrmann, in giorni insomma di citazione anche di Scorsese e del suo ultimo film. Beh, come non citare Bernard Herrmann con il grande capolavoro di Taxi Driver, chiaramente. Va bene, iniziamo quindi prendendo da questo film noir American Style, poi passeremo anche alla European Style, e quindi soprattutto un riferimento al francese, al cinema francese, ma non solo, perché poi ci saranno anche begli episodi forse più legati al genere in questo senso e meno sperimentali anche in Italia, o anche qualcos'altro tra Germania e Inghilterra. Comunque, andando a prendere un americano piuttosto misconosciuto, come tanti dei personaggi che passano da queste parti, Kerry Lamer, vicino alla Palace of Light, un'etichetta che esiste ancora, viatico piuttosto weird si potrebbe dire, parte dagli anni 80 e arriva fino ai nostri giorni, un'elettronica spinta sull'ambient e sulla cinematica anche decisa, come sentiremo appunto da Kerry Lamer, che rilegge appunto un immaginario noir, e poi di seguito insomma ci lanceremo dentro, oppure ci addentreremo forse per meglio dire, dentro questo meraviglioso mondo, forse lo è, forse no. Opening was known to need a token diamond ring. Its opening was known to need a token diamond ring. Thank you. Beh, molti di voi magari avranno riconosciuto l'intro di Casablanca che abbiamo messo con Van Kay e Ignit, o Ignit forse per meglio dire, e soprattutto insomma un gruppo che ha fatto, come dire, dell'underground, della sperimentazione, proprio una nitica oltre che un'estetica, ovvero The Residence, che abbiamo preso da appunto Film Noir American Style, una non ce la faccio proprio stasera, vabbè, perdonatemi, è così, non va qua con la non ci siamo, vabbè, di nuovo perdono, non lo farò più, giuro. E con America appunto Style siamo andati dentro quel mondo del film noir, quindi quella traslazione, permettetemi insomma questo termine perlomeno, e che appunto rileggeva sia partendo proprio dall'originale Casablanca, proprio con i titoli di testa, quindi quel Bogart romantico che abbiamo detto, il marginale però appunto che ambiguamente si pone in maniera appunto laterale, forse anche voluta, romanticamente voluta, e invece qualcosa che riguarda più invece i meandri oscuri, quelli forse sociali, quelli forse di una visione appunto a codice nero, che questa sera stiamo trattando qua a 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, e con chiaramente Residence che vanno a rileggere quello che è un immaginario noir come quello di Keir Lane, e anche quello di Voice Farm, abbiamo sentito in successione abbiamo sentito Kerry Lemire, Residence, Voice Farm e appunto Van Kay and Ignit, dove appunto le collusioni, si potrebbe dire, visto che si sta trattando di noir, con il cinema degli anni 40 e 50, che trattava appunto tematiche anche piuttosto scabrose, quasi come se ci fosse un cinema di guerra anche in America, forse in un momento insomma di chiara difficoltà, ovvia anche quantomeno, questo cinema andava insomma a indagare in un nero che ovviamente portava sia l'immagine, tutto poi l'immaginario conseguente del conflitto mondiale, e sia quel grande riecheggiamento che porterà appunto alla guerra, ovvero la crisi del 29, quindi momenti dove il gangsterismo, il fuorilegge americano diventa quasi una sorta di contraltare forse anche del divo hollywoodiano pulito, e ma che poi in realtà appunto non esiste, quasi una vaghezza forse di realismo cinematografico dentro un noir che viene qua rimandato attraverso sonorità che prendono tanto dalle originali, quanto invece appunto da una reinvenzione anche totale, seppur la traslitterazione ce l'ho fatta, e viene fatta in maniera anche piuttosto filologica in questo film noir American Style, perché insomma poi i codici di fatto rimangono sia in termini sostanziali di suoni che vanno a riecheggiare anche le orchestrazioni decisamente cupe di quei film, sia per quell'aria anzi più in generale che vive dentro il noir e viene ricodificata dentro appunto questo American Style, tra l'altro prodotto anche piuttosto di nicchia, difficile trovare, cassette che giravano fino a qualche anno fa, file che comunque si recuperano attraverso la rete anche in maniera piuttosto non particolarmente elaborato, insomma, e non vi costa particolare lavoro. Quindi, se volete approfondire il discorso di film noir American style con anche la parte europea, che sentiremo tra poco, sicuramente andrete a ritrovare quell'immaginario che magari avete già dentro di voi, ovvero quello delle visionarietà nere e questi appunto codici ricodificati forse all'infinito, visto che è un genere degenere tra i più aperti tra tutti quanti, insomma, volendo fare questo gioco appunto tra genere, forzatura di questi. E se abbiamo preso appunto la traslitterazione, a questo punto mi devo vendicare, come dire, lo devo dire una ventina di volte, e con appunto Carrie Lamer, Residence, Voice Farm e Van Kay e Ignite, continuiamo questo percorso assai arduo, hard anzi, forse anche citando insomma una prosecuzione che c'è stata anche negli anni 90 con l'Hard Boiled, un noir spinto, forse ironizzato, ricodificato in maniera assurdista, se pensiamo a certo cinema di Hong Kong, ma anche poi certo cinema di rilettura fatto in America da Tarantino in poi, e non solo, forse già da prima con Stone e con il nuovo noir degli anni 80 appunto americano. E Ghostwriter è sicuramente una figura, e anche figurativamente è assolutamente un topos del noir come cinema, ma anche del noir più in generale, ovvero lo scrittore che si cela poi dietro il grande nome che magari porta a compimento la scrittura, la narrazione, ma nacquando oppure come dire, infarcendo di propria arte, quella del Ghostwriter. Ghostwriter erano una formazione probabilmente così vicina a livello di attitudine a Voice Farm e per carattere synth punk, con tutta quella morbosità noir che si portava dietro non soltanto il genere in quanto tale, in quanto synth elettronici di fatto, insomma, tra la fine degli anni 70, primissimi anni 80, venivano quasi sempre utilizzati in maniera piuttosto scura, quasi a voler sperimentare dei meandri sonori e psichici che avevano finalmente possibilità di essere espressi appieno attraverso appunto le prime strumentazioni elettroniche di massa, e sia anche per appunto questa vaghezza noir oppure vera e propria, insomma, citazione che avviene tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Facevamo appunto il riferimento cinematografico, ma a livello sonoro, se pensiamo sia in maniera molto semplicistica a buona parte della dark wave, ma anche a buona parte di certo industrial, buona parte di certa no wave che strettamente si rifaceva al noir. Pensiamo ad esempio un nome su tutti, Lounge Lizard, con riprese proprio degli anni 40, addirittura del jazz fumoso, del noir, ma potremmo pensare anche, perché no, a un gruppo assolutamente seminale come i Suicide, quindi quelle immagini di un Elvis stravolto a livello musicale e a livello immaginifico, quasi trasformato in una sorta veramente di mostruosità, e quindi anche tutto il rimasticamento poi che c'è sia degli anni 40, 50, sia in termini di immaginario filmico, sia in termini di suoni, di sonorità, potremmo anche citare buona parte insomma delle deviazioni crempsiane, quindi quella ripresa di quei suoni assurdi degli anni 50, quasi una sorta di primitivismo quasi involontario, quindi un suono assolutamente outsider, weird and hertz all'estrema potenza. E con Ghostwriter quindi andiamo dentro quel mondo, anche se come Voice Farm pochi prodotti musicali, tutti piuttosto cupi, tutti piuttosto scuri, alcune ristampe in questi anni da parte insomma di interessate etichette che ovviamente insomma cercano di ricalcare quel suono e quella attitudine, quindi dentro ancora questi immaginari Ghostwriter e anche un personaggio che non riconoscerete, ma poi vi dirò anche chi è, un personaggio che c'entra anche molto col cinema, d'altronde stasera inevitabilmente si parla di cinema e anche tanto. e da The Ghostwriters, appunto, questi scrittori fantasma, celati, scrittori ovviamente musicali, a questo punto bisogna considerarli tali, dentro appunto la loro visione sonora noir. Vincent Gallo, dicevo che probabilmente non avreste riconosciuto il personaggio poi diventato assolutamente di culto, sia a livello cinematografico, soprattutto per il primo film, Buffalo 66, e anche, vabbè, per certi versi anche per le altre combinazioni che per altri aspetti hanno portato sicuramente non benissimo, se pensiamo insomma a quell'immagine potentissima del suo secondo film, che insomma è stata di fatto non censurata ma forse obbligata proprio dai produttori americani, che non hanno voluto più sapere quasi niente di Vincent Gallo, quasi mettendolo in una sorta di così di cattività, come altri grandi registi. Pensiamo insomma a Orson Welles, tanto per citarne uno, che scappò proprio dall'America, dall'America maccartista, perché insomma poi se si va a parlare di noir anni 40-50, ovviamente si va anche a imbattersi in questa figura assolutamente sordida, come appunto il senatore McCartney, che vedeva comunisti dappertutto anche quando non c'erano. E Orson Welles, come tanti altri, hanno avuto insomma alterne vicende. Welles poi tutto sommato insomma gli è andata male, ma è andata peggio anche ad altri, insomma, ricordando proprio fuggitivi nel vero senso della parola, quasi in stato d'arresto appunto, perché dichiarati comunisti da quella commissione, e quindi ovviamente in fuga verso l'Europa. E Vincent Gallo, riprendendo tanto quella new wave che ha sfiorato, ma per molti versi è anche fatto, se pensiamo insomma a un Vincent Gallo che giocava sì con i suoi plastics, appunto alla prima new wave, se pensiamo a The Grey, anzi a Grey senza l'articolo, progetto addirittura con il geniaccio di Jean-Michel Basquiat, quindi tutti i rimandi che ci sono chiaramente con Basquiat, dalla street art e alle sonorità di Arthur Russell, a quel mondo mutante sul serio, non soltanto in termini artistici ma di trasformazione globale, quasi antropologica, che cercavano appunto in quella New York così, così furente, così esplosiva, che ricorda poi per tanti versi, ha avuto anche tante continuità, tanti fil rouge anche con Bologna stessa, se pensiamo a Hi-Fi Bros ad esempio, giro anche loro di Oders Rubini, e anche quindi appunto di Schiantos, e la loro collaborazione con Arthur Lise, uno che abbiamo citato prima dentro il primissimo disco di Lounge Lizard, incredibile disco di no wave, jazz, noir, new bop, quant'altro insomma si possa immaginare, legato a quella fantasia esplosiva di John Lurie all'epoca, e anche appunto di Arthur Lindsay. E Gallo quindi da come dire animatore, agitatore di quella New York tra la fine degli anni 70, primi anni 80, giovanissimo tra l'altro, visto che è del 62, poi ce lo siamo ritrovati appunto direttamente dentro un cinema anche piuttosto personale, che appunto forse in un certo qual modo riprende certi umori noir, portando insomma le estreme conseguenze, anche appunto la marginalità, quell'aspetto anche di marginalità psichica quasi che si crea. Bravo Bob Anni, che abbiamo citato appunto prima per l'immagine pornografica, per l'esplosione finale appunto di semi, non soltanto in termini appunto biologici, ma anche proprio in termini di seminalità, come possibilità di un cinema crepuscolare appunto volutamente fisicamente, umoralmente nero, che ci porta ovviamente a immaginare altri tipi di cinema che per tanti versi stanno anche uscendo. Gallo, insomma, con il suo Cat Up, tra i primi esperimenti tra l'altro fatti in versione solista, dentro appunto questa splendida compilazione che stiamo trattando questa sera, appunto, qua 451 in codice nero. E Vincent Gallo con il suo Cat Up, che poi alla fine, tra l'altro, come dire, prendeva in mano la chitarra, che poi lo porterà anche al disco con la Warp, forse il disco più famoso, anzi senza forse, il disco più famoso del nostro americano. E dopo Gallo, un personaggio, veramente un ghostwriter musicale, anch'esso una sorta di genio, ci andiamo a sentire per un po' di minuti, se abbiamo recuperato qualche trasmissione fa Greg Leon, un altro geniaccio di quelli scuri è sicuramente Richard Bone, sempre dentro Film Noir, poi lo sentiremo con opere parallele di questo appunto genio americano.